Non potrò più liberarmi di Artemisia. Questa creditrice è una coscienza puntigliosa e ostinata a cui mi avvezzo come a dormire in terra. Non è più il colloquio dei primi giorni a impegnarmi, ma ho una specie di patto stipulato in regola fra notaio e testante a cui devo fare onore. Frattanto posso distrarmi e esercitare certe malizie su un ricordo che ormai dissimulo. Disse Orazio, ti devi sposare, ma io già trascino Artemisia a spasso per i giardini di boboli strapazzati e deserti dopo l'esodo dei profughi e la costringo a muoversi insieme agli ultimi rimasti, tristi padroni di un grande spazio contaminato, a incontrarci prostitute e soldatacci, a bagnarcisi di pioggia autunnale. Il ritmo della sua storia aveva una morale e un senso che forse sono crollati con le mie ultime esperienze. Io me li gioco. Si contenti Artemisia di quel che viene oggi. Il gruppo delle sue amiche fiorentine sulla ghiaia aspretta del gran viale in salita, ognuna col suo nome, Violante Vedova, Giovanna Sorri, le due cognate Torrigiani, Caterina Zitella, ognuna con l'alto trinato rigido che si impiglia alla nuca nei cappellucci. Affannano un poco perché salgono in fretta e ciascuna perde più dignità che non vorrebbe. Non del tutto consenziente, la Gentileschi si accompagna a loro, divisa fra la socievolezza e il ritegno. Le dame mi onorano, ma sappiano chi sono, virtuosa di pittura, non la solita canterina. Quando alla voltata compare la gran mole arida del palazzo, l'ingiustizia del mio arbitrio mi sa d'amaro e mi spinge a raccogliere come un oggetto perduto l'oro ottobrino di Roma. Dentro vi Artemisia chinata sulla cassa a pigiarci indumenti, su pellettili e quel che le premia al mondo. Il resto lo butterà in Tevere, tanto a Roma non tornerà. Piano piano, che gli stiattesi non sentano, che non sospettino, suo marito è uno stiattesi. Ma se riflette che va via con suo padre, che il gran Gentileschi la porta con sé, questi riguardi le paiono ridicoli e andando attorno per le sue faccende sbatte i tacchi con forza. Cartacce, nastri vecchi, lettere, sì, le quattro lettere di Agostino serbate finora. Tutto dalla finestra al vento e li veda chi vuole. Sporgendosi, offrendosi senza riguardo all'aria fina, par già ad essere in carrozza. Scorge i piedi di Giambattista seduto sulla soglia di casa. I piedi gottosi che cercano il sole, lunghi e secchi come quelli di suo figlio Antonio che il giorno delle nozze sparì. Non se ne accorge la ragazza di rimanere astratta un momento, il cipiglio duro sulla fronte, le braccia abbandonate, i capelli mossi dalla brezza come aspettasse, ascoltasse qualcosa. E i fazzoletti? Si riscuote correndo a cercarli in camera. Ma un'ansia insidiosa non voleva lasciarla e le tremò nelle mani e nella gola fino all'ultimo in quel silenzio innaturale che Orazio manteneva a decisione presa, quasi non si trattasse che di rimanere a casa come sempre. A uno i fratelli se n'erano andati, Giulio a Velletri, Marco dal padrone e Francesco s'era trovato luogo a Strada Pia in un convento che dava modo di studio. Voleva mettere bottega di suo, diceva, ma le parole appena dette pareva gli scavassero un buco nel petto magro. Parlava troppo. Quando son contenti i Gentileschi non parlano. È che il posto era bellissimo, una fortuna. Con l'occasione nell'estate del Papa a Montecavallo e accanto le vigne dei meglio signori e modelli tra i bifolchi senza spesa di un baiocco. Provava a darsi l'aria risoluta e furba come fanno questi artisti pratici, ma poco per adesso doveva combinare a Strada Pia perché lo vedevi di continuo a San Spirito portando ora il pennello fino, ora la creta speciale, se mai capitasse da bozzare che a Firenze così non ce l'hanno. E magari lo spirito per il mal di cuore distillato dalle sue monache. Sedeva, si lasciava servire una distratta colazione e se Artemisia aveva da fare in camera rimaneva lì con gli occhi fissi. Finalmente anche la sorella smise di andare attorno. Il bagaglio era pronto e sedette anche lei con gli occhi immobili, ombrosi. Da un mese Orazio non le aveva più fatto cenno del viaggio. Forse aveva dimenticato il progetto o l'invito, né c'era modo di penetrarne le intenzioni perché non teneva la sua roba in casa. Non c'era più una matita in giro né un pezzo di tela, solo qualche vecchio telaio sconnesso attaccato al chiodo. Il gatto miagolava. In quei momenti l'ansia di Artemisia batteva come una vena. Fra un mese, diceva allora Francesco, sei a Firenze, già sistemata. Attenta a scegliere bene l'esposizione delle finestre. La luce di Firenze è bianca e traditora. Meglio al primo che all'ultimo piano, perché Francesco conosceva sempre le cose che non aveva viste e le convenienze che non servivano a lui. Il 22 ottobre, all'alba, Artemisia partì. La verità non sta nella data, ma nelle parole eternamente uguali che la fissarono. Ma una data occorre, come occorse per far balzare il cuore di una giovane che non si è mai mossa di casa e ci ha patito vergogna. I facchini trasportarono le casse e un angolo della più pesante sbreccò il muro della casa. I vicini stupirono. Giambattista Stiattesi, suocero inonorato, alzò le mani al cielo per molti giorni susseguenti. Ma intanto la biondina partiva, seduta fra suo padre e un grosso frate romagnolo che tornava, lo disse subito, a Bologna. Dopo una notte passata sulla seggiola, vestita, l'immobilità precaria di quel primo istante di viaggio le dava una vertigine di eternità. Cavallanti e postiglioni andavano attorno con le lanterne, come fosse ancora notte. Dalle impannate delle osterie trapelavano lumicini. Un mendico, disteso su un banco di pietra, pareva morto. Un cavaliere dai grossi mustacchi alla spagnola fece impennare il suo palafreno e bravava uno staffiere che zoppicava. La campana di Santa Maria del Popolo suonò e Artemisia pensò un attimo all'assurdità rovinosa di smontare, entrare in chiesa, sentir messa. Aveva sonno, forse addormentandosi si sarebbe appoggiata alla spalla paterna. Infinito, dolcissimo riposo. Ma quando il carrozzone si scrollò, alla malora e venerdì, urlarono quasi insieme due voci. Gli occhi ormai chiusi, videro nitidamente Francesco a spalle curve, le chiavi in mano, che diceva: quest'inverno, un ricordo di ieri già tanto lontano. Scopro che Artemisia disse una sera di luna a Napoli in vista del mare: anch'io tengo scritti i ricordi del mio primo viaggio. Parlava a Tommaso Guaragna, conosciuto 6 ore prima. Aveva 36 anni e mentiva. Mentiva in una sorta di buona fede, prestando alla memoria l'immagine di un foglio bianco vergato a caratteri simpatici, ed era il meno che potesse fare, tanto sentiva il sapore delle anguille di Bolsena e il letto duro di San Quirico e la voce del postiglione che disse: di qui a Radicofani, tutto uno sprofondo. Ma la verità di quella settimana fu soltanto la rivincita dell'infanzia, un'infanzia sospesa e in via di restauro, talché le vedute, gli incontri, le sorprese e persino le paure nulla contavano davanti all'avvenire ritrovato. Tutto riposava sull'ineffabile certezza che Orazio era al suo fianco e lei poteva addormentarsi e risvegliarsi 100 volte, sempre lo vedeva. Ammirava quel portamento sciolto, né d'artigiano né di mercante, il modo come entrava in discorso e se ne ritraeva, la larghezza signorile dello spendere, la schiettezza nello scherzo e nel riso. Senza mende le apparivano l'abito di panno fine dal taglio un po' rigido e la barba brizzolata e sottile. Di quel cavaliere esser la figlia, appoggiargli con garbo la mano sulla manica, non parlare che a monosillabi come una damigella. Questo le bastava per sentirsi esonerata da ogni ricordo, da ogni impegno. Più stava zitta, più assurdamente sperava. E chi poteva dire che quel matrimonio dalla sera alla mattina non fosse tutto una finzione espiatoria, una commedia che Orazio avesse imbastita per garantirla dai pericoli di zitella disonorata? A Firenze c'era forse per lei, bell'e pronto, un marito nobile che il padre le aveva preparato di sottomano. Sarebbe andata, d'autunno, in villa in uno di questi castelli col verziere e il pomario. Non avrebbe conosciuto il marito che, a cose fatte, come una donzella ben educata, avrebbe dimenticata la pittura, curata la famiglia. Questi sogni Artemisia li lascia e li prende come un ricamo donnesco al canto del fuoco. Il canto del fuoco è per lei questa sedia in vettura, la sua più vera casa da quando è nata. Una ruota si ruppe, bisognò pernottare a Buon Convento. Fu lì che la fronte di Orazio cominciò a oscurarsi. La figlia vi lesse intenzioni inflessibili e tutte chiuse a quei suoi sogni incoerenti. Aveva fretta. Perché mai aveva fretta? E principiò a risentirsi sola. Soffia il primo vento d'autunno, la prima pioggia ghiaccia, cade minuta. E sotto la pioggia girarono per Siena il Gentileschi e sua figlia, lui innanzi, lei dietro, un po' affannata, raccolte malamente le gonne per non infangarsi. Cercavano per le chiese pitture moderne, segnatamente lavori di un certo Rutilio, giovane di gran speranze, come dicono. Ma a Siena non c'è che Anticaglie e Aguzze. E Orazio torna all'osteria e per l'uggia e il dispetto beve. Beve troppo, litigò per lo scotto, cattivi segni. Poi seppe che una vettura partiva a un'ora di notte. Vuole fissarla subito e alla figlia: se vuoi fermarti a dormire, fermati. Io domanda sera ho da essere a Firenze. Era finito il bel tempo. Per le discese sassose fu un rovinio, una nebbia da non vedere la strada. Lo sportello era rotto, l'aria entrava gelata. Orazio, zitto e assente, e ad Artemisia tornò alla memoria il marito che aveva preso, goffo e di ripiego. Ero sola. Questa commemorazione scavalca spesso la terza persona. Ero sola a Firenze, la più parte del giorno. All'osteria la stanza dava su un cortiletto senza luce, né buona né cattiva. Non osavo sballare gli arnesi. La padrona mi portava da mangiare in camera, il babbo rientrava a notte. Lo sentivo ridere salutando gli amici, aveva ripreso a parlare toscano. «Per vedere la città?» mi disse. «Hai tempo?» E una sera mi fa: «Ho combinato col buon Arroti, se ti dà l'animo gli fai il soffitto di una saletta. Ti lascio il pane e il companatico, se hai voglia di lavorare lavori, se no...» Cominciò a dir parolacce, come al tempo dello scandalo. L'ingiustizia è un vino che ubriaca tanto il giudice che la vittima. Io conobbi il gusto di quel vino. Fuor dell'ebbrezza capivo che cercava lo sfogo per una decisione arbitraria e crudele. Sempre così aveva fatto. E dopo il giorno disse: «Vado a Pisa da mio fratello. Mi vuol vedere? A portarti mi vergogno dopo quel che è successo e non voglio spiegare niente a nessuno, capito?» Si arrabbiava. Io zitta a farla addolorata. Dopo il viaggio stentavo a vivere per me. E così restai sola, davvero, con la guardia di una vecchia che mi credeva vedova. Stava di là d'Arno, davanti alla Sardegna, un gran puzzo, ma la luce era buona, solo troppo fredda. La vecchia era maligna, per ogni poco di processione voleva tirarmi alla finestra. «E quello è il tale, e quello è il tal'altro». Quando mi mettevo al cavalletto si imbizziva: «Ci vuol altro che madonnine, o che aspettate?» Voleva che mi rimaritassi, mi chiedeva della dote, sperava nella senseria. Ma quando ebbe visto il primo quadro finito, si acquettò di malumore. Dormiva tutto il giorno, prese a non scendere neanche per le immondizie, neppure mi cucinava. Con un certo gusto mi comportavo come una vedova. Vestivo di nero, sentivo messa tutti i giorni, solo che le vedove amano gli uomini e io li odiavo. Al mercato in Via Larga incontravo con gli amici di mio padre che avevo intraveduti. Capivo che parlavano di me, mi guardavano molto, mi salutavano appena e io non salutavo nessuno. Pensavo ai loro sporchi discorsi e impazzivo di castità. A mio paragone una monaca era una baldracca. Il buon Arroti era servito. Ma non pagava. Appena lo conoscevo, la mia prima cliente me la trovai da me. Era Giovanna. La conobbi in chiesa dove lei andava per sfoggiare il corredo. Ragazza di campagna ma sposata in corte, si trattava da dama. Aveva denaro e gioielli, comandava a suon di zuccherini la suocera golosa, smaniava di grandezze, per quattro passi volle accompagnarmi a casa in carrozza. Mi venne dietro per la scala a curiosare, mi entrò sino in camera. Io mi sentivo avveduta come una matrona e la lasciavo fare. Annusava l'essenza di trementina, si sporcò di rosso e di giallo e quando vide la Lucrezia che stavo dipingendo disse che le somigliava. E io non dissi di no. Volle il ritratto subito, l'avrebbe preteso in giornata. Le feci le carni di latte, una mano da principessa, sul fondo una tenda di broccato, accanto il forziere, il paggio e il canino. La complimentai di una Clorinda che aveva il suo viso, con l'elmo in testa. Parlava sempre, e sempre per domandare. Non era difficile prepararle risposte caute e misteriose, darle gusto. Imparai molto nel trattarla. Aveva amiche curiosissime e interessate. Tutte me le portò nella casa che m'ero trovata, con sala grande e ricca a pian terreno, proprio sull'Arno. Di notte sentivo scorrere il fiume a risucchio e i ragazzi dell'argentiere dal fondaco accanto pescavano dalla finestra i pesciolini. Fu allora che la granduchessa giovane mi mandò a chiamare perché conosceva mio padre, disse. Mi ricevette in giardino, succhiava sorbetti in continuazione, parlava toscano e poi tedesco alle sue dame. Quando mi chiese se dipingessi, risposi secca secca, mi diletto, serenissima. Mostrò d'essere distratta. Poi il protofisico le portò un'ampolla con l'urina del granduca. Lei la guardava contro luce, faceva la dottoressa. Le signore di corte, una per una, mi prendevano a parte con le loro curiosità sciocche. Mi chiedevano se dipingessi in piedi o seduta, se il confessore non facesse ostacolo al mio esercizio. Davanti alla mia porta c'erano sempre carrozze e lettighe. Uomini non ne ricevevo. Il momento è delicato. A minuzzoli mi porto dietro Artemisia. Poco conta dove mi trovo. Oggi le sono compagna sui monti di macerie che basta aver visto una volta. Lì esisteva e più non esiste. Da giorni quella sua casa dove l'avevo collocata e confessata senza pena. Ora le corre obbligo di ritrovarla con me insieme alle sue azioni. Non le risparmio la pena. Intrinseche mi divennero con Giovanna, Caterina Macci, Zitella, Violante Astorri, vedova, e quelle cognate Torrigiani. Le donne non sono amiche che appaio. Sapevo bene che insieme parlavano di me in punta di labbra, pure stillavano di gran sotterfugi per trovarmi sola e aprirsi meco nei più strani discorsi. Le eccitava quel mio tacere costante e il pericolo in cui si mettevano confidandomisi. Erano egualmente ignare d'essere sciocche o intelligenti. Tutte mi supplicavano di insegnar loro la pittura o il disegno, ma in segreto. Sregolatamente, insisteva Giovanna. Il desiderio ambizioso pungeva in quei suoi occhi piccoli, mentre si mordeva le labbra che aveva pallide e sottili. Mi rovesciava in grembo fettucce e lisci, fazzoletti da poco, formelle di cacio, canditi muffi, che era anche avara. Comprava alla rinfusa carta da disegnare e matitatoio. Pretendeva cominciar subito, che nessuno lo sapesse, e sbalordire fra un mese. Violante, saputa, adolatrice che vuole essere adulata, mi mostrava certi suoi impiastri di convento, certi santini divoti. Lei che rideva di tutto, voleva elogi, umiliandosi falsamente. Con questa scaltra era un pericoloso trattare, non vedevo i suoi fini. Sempre insieme venivano le Torrigiani, esse si sorvegliavano. Spose di fratelli conducevano in famiglia una lotta mascherata di concordia, sempre accalorate di benignità. Con sorrisi taglienti parlavano dei mariti, come a difenderli, poveretti. Insieme volevano imparare, ma se l'una aveva le spalle voltate, l'altra incominciava una foltissima mimica che non riuscivo a intendere. Caterina sola provò. Ebbe un modo di pregarmi legato e intenso con quel viso grassoccio di reclusa, quell'impaccio di muta, sorprendente fra tante chiacchiere. Era libera invece, erede ricca, ma si faceva comandare da tutti, dalla nutrice, dal cocchiere, dalla madrina, dal fattore. Indossava panni sontuosi con mala grazia, che era sfiducia di ogni letizia. Disegnò subito Benino e lavorava per ore con una alacrità da operaia chiusa in un camerotto che avevo dietro la sala, scongiurando che nessuno potesse coglierla in quell'esercizio. Componeva di fantasia senza staccare il carboncino dal foglio. Poco io le insegnavo, ma il giorno che Giovanna la scoprì ebbe un urlo da scorticata, diventò bianca come il gesso e tremava. Non ci fu verso che seguitasse. Finirono per venir tutte, ogni giorno, e ogni giorno ritrovarsi. In quel tempo dipingevo Oloferne. Mi par d'essere nel vero, un vero indicibile, formando sulle labbra di Artemisia queste parole. Almeno una volta le avrà dette, con quell'albagia spagnolesca che imparò dopo i 30 a Napoli. Alzava il mento duro di biondina testarda e spacciava con toscana precipitazione quelle sillabe scorrevoli, Oloferne. Sillabe che solo oggi, decantate da estranee e lontanissime vicende, liberano il succo di un sorriso bizzarro, insieme timido e insolente, proprio il fondo di un carattere e di un costume. «Vi dà l'animo, signora Artemisia, di dipingere questa gran tela per la Serenissima? Un soggetto eroico da par vostra?» Era forse una proposta ironica da uomo beffardo a donna superba? E già nella mente di Artemisia tutto era pronto. Oloferne, Giuditta e Oloferne. La testa era avvolta in un panno. No, la testa nuda e sanguinosa. E perché non il corpo, il grosso corpo del tiranno? Vedano questi toscani se so disegnare. Non può essere che Artemisia non dicesse alle amiche: ho un impegno di importanza per la Serenissima. Ma già tutte sapevano e coglievano ogni pretesto, imperiose, insinuanti, stordite per curiosare. Trovavano la pittrice chiusa nel suo casaccone da lavoro, i flasci capelli spioventi, il viso tirato dalla fatica, in piedi o seduta su un alto trespolo davanti alla gran tela. Rimanevano interdette e inoperose dinanzi a gesti che non conoscevano e che ella abbandonava alla loro avidità, dimentica di comporsi, di apparire come voleva che la vedessero, a volte miserella, quasi schiacciata dall'opera, a volte maestosa, arditissima. Non avrebbero saputo che fare se accanto alla finestra, rovesciato su una coltre a testa all'ingiù, il torso nudo, non avessero scorto Anastasio, il gigante greco, un facchino di piazza che 2 anni prima aveva divertito Firenze per la sua statura, e ora campava la vita senza che nessuno ne facesse più meraviglia. Sbirciavano quel corpaccio, spostavano una sedia, si chinavano per avere la scusa di avvicinarsi. Più che la gradazione dei pennelli e il colore delle terre che Artemisia stemperava e mescolava, più del gioco della tavolozza, loro eterna voglia, pareva attirarle la congiuntura di quell'omone seminudo, non soggetto per vincolo di servitù, ma obbediente a una necessità più alta di un costume. Giovanna cominciava a ridere. «Beh, il parruccone che gli hai messo, dove l'hai trovato, Artemisia?» Le torrigiane arricciavano il naso. «Oimè, che odor cattivo!» «E violante, da esperta. Fagli torcere l'anca che si vedan meglio i muscoli.» Poco s'accorgeva Artemisia di queste baie, raramente rispondeva. Lei, tanto schiva, se solo il fratello guardasse un suo disegno, si era avvezzata alle osservazioni di queste femmine e alla loro indiscrezione, con un'indifferenza di cui neppure stupiva. E a volte, alzandosi di furia e andando deliberatamente al modello per disporlo in guisa più conveniente al suo proposito, le accadeva di calpestare il lembo di una veste o urtare una spalla tonda